23 febbraio 1986, Luca Rossi. Era la sera del 23 febbraio 1986. Nei pressi di Piazzale Lugano, a Milano, Luca Rossi, giovane studente e militante di Democrazia Proletaria, veniva colpito alla nuca da un colpo di pistola sparato poco distante. Il giovane studente morì quasi subito. Ad esplodere il colpo, come emerso dalle indagini, fu l'agente di polizia Pellegrino Policino che, coinvolto in una rissa poco lontano, avrebbe esploso il colpo per difesa personale. Fu chiaro quasi subito che l'agente sparò dal terzo uomo, colpendo il giovane Luca, che si trovava a camminare nelle vicinanze. Per la sua morte, l'agente Policino venne condannato a 2 anni per l'omicidio colposo aggravato.